Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Per 15 giorni Giulia Ricci e Clara Green occuparono Andrea. Poi partì per Parigi e per Londra in compagnia del Musellaro. Tornò a Roma verso la metà di dicembre. Trovò la vita invernale già molto mossa e fu subito ripreso nel gran cerchio mondano. Ma egli non s'era mai trovato in una disposizione di spirito più inquieta, più incerta, più confusa. Non aveva mai provato dentro di sé uno scontento più molesto, un malessere più importuno. Né mai aveva provato contro di sé medesimo impeti d'ira e moti di disgusto più crudeli. Talvolta, in qualche stanca ora di solitudine, egli si sentiva salire dalle profonde viscere l'amarezza, come una nausea improvvisa, e rimaneva là ad assaporarla, torpidamente, senza aver la forza di cacciarla fuori, con una specie di rassegnazione cupa, come un malato che abbia perduta ogni fiducia di guarire e sia disposto a vivere del suo proprio male, a raccogliersi nella sua sofferenza, approfondarsi nella sua miseria morale. Gli pareva che di nuovo l'antica lebbra gli si dilatasse per l'anima e di nuovo il cuore gli si vuotasse per non riempirsi più mai, come un otre forato, irreparabilmente. Il senso di questa vacuità, la certezza di questa irreparabilità, gli muovevano talvolta una specie di collera disperata, e poi un disprezzo folle di sé medesimo, del suo volere, delle sue ultime speranze, degli ultimi suoi sogni. Egli era giunto a un terribile momento, incalzato dalla vita inesorabile, dall'implacabile passione della vita. Era giunto al momento supremo della salvezza o della perdizione, al momento decisivo in cui i grandi cuori rivelano tutta la loro forza e i piccoli cuori tutta la loro viltà. Egli si lasciò sopraffare. Non ebbe il coraggio di salvarsi con un atto volontario. Pur essendo in balia del dolore, ebbe paura di un dolore più virile. Pur essendo travagliato dal disgusto, ebbe paura di rinunziare a ciò che lo disgustava. Pur avendo in sé vivo e spietato l'istinto del distacco dalle cose che più gli parevano attrarlo, ebbe paura di allontanarsi da quelle cose. Egli si lasciò abbattere, abdicò intieramente e per sempre alla sua volontà, alla sua energia, alla sua dignità interiore. Sacrificò per sempre quel che gli rimaneva di fede e di idealità. Si gittò nella vita come in una grande avventura, senza scopo, alla ricerca del godimento, dell'occasione, dell'attimo felice, affidandosi al destino, alle vicende del caso, all'accozzo fortuito delle cagioni. Quando la mattina del 30 dicembre, nella via dei Condotti, inaspettatamente, si rincontrò con Elena Muti, egli ebbe una commozione inesprimibile, come dinanzi al compiersi di un fato meraviglioso, come se il riapparir di quella donna in quel momento tristissimo della sua vita avvenisse per virtù di una predestinazione ed ella gli fosse inviata per soccorso ultimo o per ultimo danno nel naufragio oscuro. Il primo moto dell'anima sua fu di ricongiungersi a lei, di riprenderla, di riconquistarla, di ripossederla tutta quanta, come un tempo, di rinnovare la passione antica con tutte le ebbrezze e tutti gli splendori. Il primo moto fu di giubilo e di speranza. Poi, senza indugio, risorsero la diffidenza e il dubbio e la gelosia. Senza indugio l'occupò la certezza che nessun prodigio mai avrebbe potuto risuscitare solo una minima parte della felicità morta, riprodurre solo un baleno dell'ebbrezza spenta, solo un'ombra dell'illusione sparita. Ella era venuta. Ella era venuta. Era rientrata nel luogo dove ogni cosa per lei custodiva un ricordo. E aveva detto: «Io non son più tua. Non potrò essere tua più mai». Aveva gridato contro di lui: «Soffriresti tu di spartire con altri il mio corpo?» Proprio aveva osato gridare quelle parole contro di lui, in quel luogo, in cospetto di quelle cose. Un dolore atroce, enorme, fatto di mille punture, l'una dall'altra distinte, e l'una più dell'altra acute, lo tenne per qualche tempo e l'esasperò. La passione lo riavvolse con mille fuochi, suscitandogli un inestinguibile ardore carnale per quella donna non più sua, risvegliandogli nella memoria tutte le più minute particolarità dei godimenti lontani, le immagini di tutte le carezze, di tutte le attitudini di lei nel piacere, di tutte le folli mescolanze che non saziavano né appagavano mai, la loro brama di continuo rinascente. E pur sempre, in ogni sua immaginazione, persisteva quella strana difficoltà a ricongiungere l'Elena di una volta all'Elena d'ora, mentre i ricordi del possesso lo accendevano e lo torturavano. La certezza del possesso gli sfuggiva. L'Elena d'ora gli pareva una donna nuova, non mai goduta, non mai stretta. Il desiderio gli diede tali spasimi che gli credé morirne. L'impurità li infettò come un tossico. Qual era stata la cagion vera della partenza di Elena nel marzo del 1885? Molte dicerie erano corse in quel tempo e nel tempo del matrimonio di lei con Humphrey Heathfield. La verità era una sola. Egli la seppe da Giulio Musellaro per caso, in mezzo a chiacchiere inconcludenti, una sera uscendo da un teatro, e non ne dubitò. Donna Elena Muti era partita per affari di finanza, per combinare un'operazione che doveva trarla da gravissimi imbarazzi pecuniari causati dalla sua eccessiva prodigalità. Il matrimonio con questo Lord Hetfield l'aveva salvata da una rovina. Questo Hetfield, marchese di Mount Edgecombe e conte di Bradford, possedeva ricchezze considerevoli ed era alleato con la più alta nobiltà britannica. Donna Elena aveva saputo far le sue cose con molto accorgimento. Aveva saputo escir dal pericolo con una abilità straordinaria. Senza dubbio, donna Elena era una gran donna. «Ah, mio caro, una gran donna!» ripeté Giulio Musellaro. «E tu lo sai bene!» Andrea tacque. Ella dunque veramente non l'aveva mai amato. Senza esitare aveva troncato l'amore per provvedere a un dissesto. Senza esitare aveva concluso un matrimonio utile. Ora dinanzi a lui prendeva un'attitudine di martire, si avvolgeva in un velo di sposa inviolabile. Un riso amaro gli saliva dal fondo e poi una collera sorda gli si mosse contro la donna e l'accecò. I ricordi della passione non valsero. Tutte le cose di quel tempo gli apparvero come un solo inganno, enorme e crudele, come una sola menzogna. E quest'uomo, che dell'inganno e della menzogna si era fatto nella vita un abito, quest'uomo che aveva ingannato e mentito tante volte, si sentì al pensiero dell'altrui frode offendere, sdegnare, disgustare, come da una colpa imperdonabile, come da una mostruosità inescusabile ed anche inesplicabile. Egli non giungeva infatti a spiegarsi come Elena avesse potuto commettere un tal delitto. E pur non giungendovi, non le concedeva alcuna giustificazione, non accoglieva il dubbio che una qualche segreta cagione l'avesse spinta alla fuga subitanea. Egli non voleva sapere, egli non sapeva vedere che l'azione brutale, la bassezza, la volgarità soprattutto cruda, aperta, odiosa, non attenuata da nessuna contingenza. Insomma, si trattava di questo. Una passione che pareva sincera ed era giurata altissima, inestinguibile, veniva ad essere interrotta da affar di denaro, da una utilità materiale, da un negozio. Ingrato, ingrato. Che sai tu di quel che è accaduto, di quel che io ho sofferto? Che sai? Le parole di Elena gli tornarono nella memoria precise. Tutte le parole di lei, dal principio alla fine del colloquio tenuto dinanzi al caminetto, gli tornarono nella memoria. Le parole di tenerezza, le offerte di fraternità, tutte quelle frasi sentimentali. Perché mai aveva ella consentito a venir nella casa? Perché aveva voluto recitar quella parte, provocar quella scena, ordire quel nuovo dramma? Oh, quella nuova commedia. Perché? Chi era ella mai? Era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttuario. A similitudine di tutte le creature avide di piacere, ella aveva per fondamento del suo essere morale uno smisurato egoismo. La sua facoltà precipua, il suo asse intellettuale, per dir così, era l'immaginazione. Un'immaginazione romantica, nutrita di letture diverse, direttamente dipendente dalla matrice, continuamente stimolata dall'isterismo. Possedendo una certa intelligenza, essendo stata educata nel lusso di una casa romana principesca, in quel lusso papale fatto di arte e di storia, ella era sibelata di una vaga incipriatura estetica. Aveva acquistato un gusto elegante, ed avendo anche compreso il carattere della sua bellezza, ella cercava, con finissime simulazioni e con una mimica sapiente, di accrescerne la spiritualità, irraggiando una capziosa luce d'ideale. Ella portava quindi nella commedia umana elementi pericolosissimi, ed erano occasion di ruina e di disordine, più che se la facesse pubblica professione di impudicizia. Sotto l'ardore della immaginazione, ogni suo capriccio prendeva un'apparenza patetica. Ella era la donna delle passioni fulminee e degli incendi improvvisi. Ella copriva di fiamme eteree i bisogni erotici della sua carne e sapeva trasformare in alto sentimento un basso appetito. Così, in questo modo, con questa ferocia, Andrea giudicava la donna un tempo adorata, e a poco il disprezzo gli si mutò in un'indulgenza ironica, poiché egli comprendeva tutto ciò che ritrovava in sé medesimo. Allora con fredda chiarezza definì il suo intendimento. Tutte le particolarità del colloquio avvenuto nel giorno di San Silvestro più di una settimana innanzi, tutte gli tornarono alla memoria, ed egli si piacque a ricostruire la scena con una specie di cinico sorriso interiore, senza più sdegno, senza concitazione alcuna, sorridendo di Elena, sorridendo di sé medesimo. Perché ella era venuta? Era venuta perché quel convegno inaspettato con un antico amante in un luogo noto, dopo 2 anni, le era parso strano. Aveva tentato il suo spirito avido di commozioni rare. Aveva tentata la sua fantasia e la sua curiosità. Ella voleva ora vedere a quali nuove situazioni, a quali nuove combinazioni di fatti l'avrebbe condotta questo gioco singolare. L'attirava forse la novità di un amor platonico con la persona medesima che era già stata oggetto di una passione sensuale. Come sempre, ella era si messa con un certo ardore all'immaginazione di un tal sentimento, e poteva anche darsi che la credesse di essere sincera e che da questa immaginata sincerità avesse tratto gli accenti di profonda tenerezza e le attitudini dolenti e le lacrime. Accadeva in lei un fenomeno a lui ben noto. Ella giungeva a creder verace e grave un moto dell'anima fittizio e fuggevole. Ella aveva, per dir così, l'allucinazione sentimentale, come altri ha l'allucinazione fisica. perdeva la coscienza della sua menzogna e non sapeva più se si trovasse nel vero o nel falso, nella finzione o nella sincerità. A questo punto era lo stesso fenomeno morale che ripetevasi in lui di continuo. Egli dunque non poteva con giustizia accusarla, ma naturalmente la scoperta toglieva a lui ogni speranza d'altro piacere che non fosse carnale. Ormai la diffidenza gli impediva qualunque dolcezza d'abbandono, qualunque ebbrezza dello spirito. Ingannare una donna sicura e fedele, riscaldarsi a una grande fiamma suscitata come un baglior fallace, dominare un'anima con l'artificio, possederla tutta e farla vibrare come uno strumento, può essere un alto diletto. Ma ingannare, sapendo d'essere ingannato, è una sciocca e sterile fatica. È un gioco noioso e inutile. E dal sogno mio breve il sole eterno. Egli doveva dunque ottenere che Elena rinunziasse all'idea di fraternizzare e gli tornasse fra le braccia come un tempo. Egli doveva riprendere il possesso materiale della bellissima donna, trarre dalla bellezza di lei il maggior possibile godimento e quindi esserne per sempre liberato dalla sazietà. Ma in questa impresa conveniva usar prudenza e pazienza. Conveniva secondarla nelle aspirazioni spirituali, accettarla come la sorella più cara, l'amica più dolce, inebriarla d'ideale, platonizzando con accortezza, e a poco trarla dalla candida fraternità a un'amicizia voluttuosa, e da un'amicizia voluttuosa alla total resa del corpo. Probabilmente queste transizioni sarebbero state rapidissime. Tutto dipendeva dalla circostanza. Così ragionava Andrea Sperelli dinanzi al camino che aveva illuminata l'amante Elena ignuda, avvolta nel drappo dello zodiaco, ridente tra le rose sparse. E l'occupava una stanchezza immensa, una stanchezza che non chiedeva il sonno, una stanchezza così vacua e sconsolata che quasi pareva un bisogno di morire, mentre il fuoco spegnevasi in sugli alari e la bevanda freddavasi nella tazza. Nei giorni che seguirono egli invano aspettò il biglietto promesso. Vi scriverò un biglietto per dirvi quando potrò vedervi. Elena dunque intendeva dargli un nuovo convegno? Ma dove? Ancora nella casa Zuccari? Avrebbe commesso ella la seconda imprudenza? L'incertezza gli dava torture indicibili. Egli passava tutte le sue ore a ricercare un qualunque mezzo per incontrarla, per vederla. Più di una volta andò all'albergo del Quirinale con la speranza d'esser ricevuto, ma non la trovò mai. La rivide una sera col marito, con Momps, come ella diceva, di nuovo al teatro. Parlando di cose leggere, della musica, dei canti, delle dame, egli mise nel suo sguardo una tristezza supplichevole. Ella si mostrò molto preoccupata del suo appartamento. Rientrava nel palazzo Barberini, nel suo antico quartiere, ma ampliato, ed era sempre con i tappezzieri a dare ordini, a disporre. «Rimarrete a Roma lungo tempo?» le chiese Andrea. «Sì, sì, ella rispose, Roma sarà la nostra residenza invernale.» Poco dopo soggiunse. «Voi veramente potreste darci qualche consiglio per l'addobbo? Venite una di queste mattine al palazzo. Io ci sono sempre fra le 10 e mezzogiorno.» Egli profittò di un momento in cui Lord Heathfield parlava con Giulia Musellaro, giunto allora nel palco, e chiese, guardandola negli occhi, «Domani?» E la rispose con semplicità, come se non avesse badato all'accento di quella interrogazione, «Tanto meglio?» La mattina dopo egli andò, verso le 11, a piedi, lungo la via Sistina, per la piazza Barberini, e su, per la salita. Era un cammino ben noto. gli parve di ritrovare le impressioni di una volta. Ebbe un'illusione momentanea. Il cuore gli si sollevò. La fontana del Bernini brillava singolarmente al sole, come se i delfini, la conchiglia e il tritone fossero divenuti di una materia più diafana, non pietra e non ancor cristallo, per una metamorfosi interrotta. L'operosità della nuova Roma empiva di rumore tutta la piazza e le vie prossime. Tra i carri e i giumenti guizzavano i piccoli chiocciari, offrendo le violette. Quando egli oltrepassò il cancello ed entrò nel giardino, sentendosi prendere da un tremito, pensò: «Ma l'amo io dunque ancora? Ancora la sogno?» Gli pareva che il tremito fosse quel d'una volta. Guardò il gran palazzo radiante e il suo spirito volò ai tempi in cui quella dimora, in certe albe fredde e nebbiose, prendeva per lui un aspetto d'incanto. Tutto l'ingannevole fermento cadde appena egli varcò la soglia e vide venire incontro il marchese di Mount Edgecombe, sorridente di quel suo sorriso fine, un po' ambiguo. Allora incominciò il supplizio. Elena comparve, gli tese la mano con molta cordialità innanzi al marito, dicendogli: «Bravo Andrea, aiutateci, aiutateci. Dove mettereste voi questi due cassoni? Vedete? Li ha trovati Mumps a Lucca. Le pitture sono del vostro Botticelli. Dove mettereste questi arazzi?» Andrea guardò Elena, ma non incontrò gli occhi di lei. Una irritazione sorda lo prese contro di lei, contro il marito, contro quegli oggetti. Ogni volta che l'amica gli chiedeva un consiglio, doveva fare uno sforzo per rispondere, per vincere la malavoglia, per dominare l'impazienza. Ad una porta il cappellino di Elena urtò la portiera malmessa e si piegò tutto da un lato. Ella, ridendo, chiamò Mumps perché le sciogliesse il nodo del velo, e Andrea vide quelle mani odiose sciogliere il nodo sulla nuca della desiderata, sfiorare i piccoli riccioli neri, quei riccioli vivi che un tempo sotto i baci rendevano un profumo misterioso. Senza indugio egli si congedò, affermando d'essere aspettato a colazione. «Noi verremo a star qui definitivamente il 1° febbraio, martedì», gli disse Elena. «Allora sarete, spero, un nostro assiduo». Andrea s'inchinò.